Io non so quanti degli archivisti e dei cancellieri delle 15 diocesi siano presenti, perché molte sono anche rappresentate da laici. Non ho l'elenco completo. Si potrebbe, è già esposto, potete anche vederlo, c'è la copia. Comunque io solleciterei subito i presenti ad intervenire. Per esempio, che rapporto c'è? Se c'è il rapporto tra archivio storico e archivio corrente. A voi cancellieri, archivisti, prendete la parola per dire anche le situazioni che voi vivete e rappresentate. Ci vuole la caramella per il primo che interviene. Prego, dica il suo annuncio, il suo nome. Interventi brevi. Sì. Mettiamoli. Sì. Il nostro archivio è un archivio molto modesto. La documentazione è quasi tutta dal 500 in poi, prima c'è poca roba. Comunque, nella risistemazione dell'archivio noi abbiamo due ampi locali. In uno c'è l'archivio storico. Quello raccoglie i documenti di massima fino al 1930, anche perché dal punto di vista amministrativo, con il concordato, con la soppressione delle fabbricerie, eccetera, è stato più facile, fissare un termine. E praticamente il materiale fino al 1930 è materiale consultabile. Quello è aperto, diciamo, come archivio soltanto per l'archivista. Chi viene a consultare si mette nella piccola saletta di consultazione, domanda, c'è uno schedario, seppur sommario, domanda l'argomento, si fa vedere, si porta a consultare. Archivio storico. L'archivio corrente comprende tutto il materiale dal 1930 in poi ed è accessibile ovviamente a tutti gli ufficiali di curia, dico il cancelliere, il direttore dell'ufficio amministrativo, anche perché possono avere delle necessità di consultare dei documenti per pratiche eccetera. E lì il materiale, man mano che viene portato dai diversi uffici, si cerca di catalogarlo e di sistemarlo secondo un certo piano. La distinzione comunque per noi c'è: archivio storico e archivio corrente. Il problema è quello della... Dunque c'è una catalogazione per l'archivio storico abbastanza completa. Per l'archivio corrente si tratta di aggiornarlo sempre, c'è una catalogazione che si ferma a circa 15 anni fa, l'ultimo materiale non è ancora catalogato bene in schede, anche perché se ne può aggiungere alle volte, non so, va via un vescovo, ti portano tutto il materiale che lui lascia là, bisogna metterlo, eccetera. Comunque, una catalogazione, diciamo, seppur sommaria a schede, si sta facendo. Invece non abbiamo ancora cominciato con l'informatizzazione. Prima però di mettere dentro nel computer i dati, bisogna che siano ordinati e messi bene. Va bene, non proseguiamo con questo argomento che è molto pericoloso. Cioè, ecco, tutti quanti i signori avranno avuto tra le mani un regolamento che è stato elaborato per gli archivi ecclesiastici. Credo tutti quanti i vescovi, archivisti, comunque copia è stata prodotta per tutti quanti voi. Io non so, ecco, il funzionamento tra archivio corrente e archivio storico, chi lo determina? Certamente una indicazione è stata data nel 1930 al concordato, certamente è un passaggio significativo, ma è solo quello? Esterno? Criteri interni? Ci sono dei regolamenti propri? Ecco, io sto ponendo dei problemi che occorrerebbe prenderli in considerazione per dare un funzionamento ordinato, perché tra l'archivio corrente e l'archivio storico, come loro ben sanno, poi c'è l'archivio di deposito temporaneo. Sono formule, prima di passare nell'archivio storico in maniera definitiva, non stanno più nel corrente, non stanno nello storico, stanno con il deposito. Tutti quanti avete ricevuto, prendetevelo, un regolamento degli archivi. I vescovi l'hanno ricevuto certamente e ce l'hanno dato, ce l'hanno chiesto anche la Conferenza Episcopale Italiana. Testo anche che è stato poi utilizzato e sarà pubblicato in forma anche più autorevole. Io credo che un regolamento, una normativa, occorrerebbe darsela. Bisognerebbe darsi delle norme. Guardate, l'archivistica è sorta da noi. Poi gli stati moderni l'hanno preso in proprio. Le istituzioni, l'apparato, tutta l'organizzazione dello Stato l'ha preso da noi. Noi l'abbiamo abbandonato, forme di norme archivistiche. Io credo che gli archivi ecclesiastici debbano riscoprire una delle regole fondamentali di funzionamento. E questo è importante proprio per conservare la preziosa documentazione e per incrementare, cioè creare l'archivio, perché l'archivio si fa giorno per giorno. Man mano che si producono documenti, e documenti sono del più vario genere, non solo quelli amministrativi, precettivi, ma sono anche quelli, oggi come oggi, di riflessione, di proposta, di articolazione, di sussidi, è tutta documentazione che esprime la sollecitudine pastorale del vescovo o del parroco. Perché vedete, quando parliamo di archivi ecclesiastici, io credo che dovremmo allargare un po', scoprire la geografia un po' e la tipologia degli archivi ecclesiastici. Non si può riassumere, non si può sintetizzare tutto archivi ecclesiastici, archivi vescovili. Quelli sono uno dei tanti. Non si può dire archivi ecclesiastici perché archivi della Curia sono una parte degli archivi ecclesiastici, sono tanti. Se voi avete la bontà di scorrere quella elencazione che io ho dato su un foglio, è molteplice, variegata questa realtà. Se partiamo dalla parrocchia, ecco, andiamo proprio dalla periferia, cominciamo dalla realtà concreta della comunità cristiana, e c'è l'archivio parrocchiale, e poi c'è l'archivio dei capitoli antichi che oggi sono scomparsi, ma che le carte rimangono, la cui identità bisognerebbe conservare. E poi ci sono gli archivi delle confraternite, che molto spesso confluiti negli archivi parrocchiali. E poi ci sono gli archivi degli enti assistenziali ed educativi. Monti Pietà un tempo, Baritaggio un tempo, oggi scuole parrocchiali, oratori parrocchiali. Sono tutte realtà queste di cui la documentazione va considerata, sono archivi. E poi gli archivi delle associazioni di più recente fondazione, archivi della Chiesa Cattolica, archivi di tanti movimenti. Sì, i seminari sono a livello un po' centrale. Nelle città episcopali certamente c'è quello della Curia, c'è quello del capitolo della cattedrale, e c'è l'archivio del seminario. Ma poi c'è anche l'archivio di recenti istituti, consiglio presbiterale, consiglio pastorale, consulta dei laici, istituto di sostentamento del clero, sono tutti archivi. E poi c'è l'archivio della Zona Cattolica, per nominare un po' il maggiore. Qualche volta tutti questi archivi della città episcopale sono raccolti insieme, l'archivio diocesano. Io credo che questa tipologia, questa geografia va considerata per adoperare poi un atteggiamento adeguato e degli interventi specifici, magari dei progetti, dei programmi, che non possono tutto ammassare, perché ammassando documentazione si cancella storia, quando non viene fatta con dei criteri che rispettano la realtà storica. Ma tutta questa documentazione, quando noi diciamo archivi ecclesiastici, intendiamo anche tutta un'altra categoria enorme, l'archivio delle congregazioni, degli istituti, degli ordini religiosi, che hanno poi una loro articolazione. Sono archivi pur essi, E la storia religiosa delle singole popolazioni trovano in questi archivi, dove loro hanno degli insediamenti, delle case, hanno registrazione, sono conservate. Non ne parliamo poi dell'altro settore storicamente significativo, gli archivi dei monasteri maschili e femminili, che in seguito alle varie soppressioni sono confluiti forse o negli archivi di Stato o negli archivi vescovili. E poi, quando parliamo di archivi ecclesiastici, noi intendiamo tutta un'altra categoria, archivi delle conferenze episcopali regionali. Da un secolo, da 100 anni in qua, i vescovi nelle loro riunioni hanno prodotto. E quanto hanno prodotto? Ci sono gli archivi, adesso si vanno esplorando. Io ho avuto la fortuna di pubblicare quasi un insieme, ecco, di testi significativi, e questo sta muovendo. Per esempio in Lombardia stanno facendo lo studio sulle origini della conferenza episcopale, e in Sicilia altrettanto. Cioè, questa è una realtà, costituire le conferenze episcopali regionali quasi degli osservatori privilegiati, oltre che dei momenti di convergenza e di collaborazione. E poi ci sono, dal 1930 in poi, gli anni 30, gli archivi dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali. Naturalmente tutta questa documentazione dispersa si integra, la informazione si completa. Naturalmente periferica informazione, documentazione, poi si integra con quella che si trova a Roma. A Roma ci sono tanti archivi ecclesiastici, oltre quelli delle curie generalizie, degli ordini, delle congregazioni religiose, maschili e femminili. E poi ci sono gli archivi specifici delle parrocchie, gli archivi del vicariato, gli archivi di ogni istituzione culturale, pensate, università, facoltà, atenei, accademie. E poi ci sono gli archivi centrali della curia romana. Ecco perché questo è importante, perché quando si fa il discorso degli archivi ecclesiastici, dimmi di che cosa parliamo e poi facciamo il discorso. Perché se diciamo archivi ecclesiastici, diciamo, comprendiamo tante cose, magari nella mente ne abbiamo qualcuna. Ebbene, occorre scientificamente esplicitare, per poter poi parlare in maniera precisa e conseguentemente operare in maniera adeguata. Tipologia e geografia. È molto importante, occorre che il mondo della ricerca, il mondo della cultura, occorre che ne prenda atto, proprio per poter fare anche le ricerche stesse, le ricerche scientifiche, le ricerche di carattere storico, possono muoversi in maniera appropriata. Tante volte si disperdono in ricerche e non si possono trovare determinate informazioni in determinati archivi. E molto spesso sfugge questa informazione della varia tipologia degli archivi ecclesiastici e della loro estesa geografia. Questo serve anche adesso all'interno di una diocesi, perché l'archivista della curia vescovile, io credo che col passare degli anni dovrà sovrintendere quasi agli archivi, perché deve poi illuminare un po' i parroci, i quali, essendo archivisti naturali, devono essere anche aiutati. Io credo che tra qualche anno vedremo la figura del sovrintendente archivistico ecclesiastico, che cioè l'archivista della curia vescovile, che diventando sempre una funzione stabile, diventando sempre più una missione precisa e quindi con una competenza appropriata, quasi istituita, e allora incomincerà dalla curia, dall'archivio della curia, bisogna spaziare all'archivio della diocesi. Che ne dite voi? Prego, intervenga. Così, ecco, ci arricchiamo, man mano parliamo, conversiamo. Come vedete, ecco, dobbiamo darci una attrezzatura moderna, ma non un'attrezzatura fatta di scaffali, ma attrezzatura mentale, attrezzatura operativa, orizzonti precisi. Dobbiamo darcele, perché credo che oggi anche l'archivio si pone dentro tutto un processo culturale che è nella società, che alza continuamente la domanda non soltanto per ricercare, ma anche per definire le proprie identità, come diceva il professor Prodi, per cercare un supplemento d'anima. E credo che sotto questo aspetto l'archivio deve definirsi nel suo ruolo. E che la definizione del suo ruolo come conservazione di tradizione e al tempo stesso produttore di cultura deve essere visto in maniera completa. E credo che un regolamento dovremmo darcelo. Io credo che negli archivi di tutte quante le curie vescovili dovrebbe esserci un regolamento, che ne dite? Ci vorrebbe. Perché devono passare, ecco, la gestione dell'archivio deve passare dal regime discrezionale a passare, a mio avviso, al regime di servizio culturale. Perché, come dice la Gaudete Spesse, tutti i beni che le comunità cristiane hanno, essi li hanno prodotti al loro interno, della loro dinamica, sono stati originati, ma poi sono beni per tutti, perché la cultura è un bene universale e i beni nei quali la cultura si esprime hanno una destinazione universale. Io credo che una stagione di missione nuova aspetta un po' agli archivi e agli archivisti. Chi vuole intervenire? Io faccio domande, esprimo domandando. Veramente si può tradurre in una proposta per la gente, proprio. Fare che sovrintendenti agli archivi, come ci sono sovrintendenti dei monumentali. Intervenga direttamente. Non so, nella Venezia so che i vescovi hanno da tempo parlato di costituire l'ufficio per i beni culturali di ciascuna diocesi. Da noi, per esempio, c'è questo direttore dell'ufficio, dovrebbe avere non soltanto, diciamo, avere l'intere la funzione della sacra o comunque, ma anche la parte artistica. Da noi c'è stato già nel proposito, ma anche questo lavoro, cioè io ho chiesto a Fabio Contacci di fare questo lavoro di sistemazione o comunque di primo apporto di parte per sistemare gli archivi. So se che questa proposta io potrei dire l'archivista della Puglia, supposto che come archivista della Puglia possono mettere uno già tempo, perché se si mettono uno che ha e si convence, non lo so. In modo, questo è. Poi c'è un'altra cosa, a proposito di regolamento, io non so se sbaglio, ma dopo tanti anni di avere avuto il luogo importante, noi si aspettava anche che venissero perfezionati gli accordi per vedere quali sono i rapporti in merito con l'autorità civile, per vedere se c'è la possibilità, dico, che impegni dobbiamo prendere con l'autorità civile. Le posso dire subito, la informo. Proprio perché la intesa sull'articolo 12 è maturata. Ed è maturata grazie proprio al fervore che si sta manifestando per tutta quanta l'Italia. Io posso dire anche di più che il testo dell'intesa è siglato. Ma molto ruota. Innanzitutto c'è un atteggiamento di grande attenzione da parte dello Stato nei confronti degli archivi ecclesiastici, grande attenzione e riconoscimento della loro importanza fondamentale per lo sviluppo del patrimonio culturale della nazione. Questo è detto in maniera precisa. Ma questo suppone, lo Stato è disposto ad intervenire e si è impegnato ad intervenire, però questo suppone interlocutori forti e validi. E l'interlocutore giuridicamente non può non essere che il vescovo. giuridicamente non ci può essere altri. Il singolo vescovo. Il singolo vescovo, il quale al suo archivio e a tutta quanta la realtà archivistica di sua, del territorio di cui è responsabile, dà una configurazione moderna. Conservazione, configurazione moderna, che è impostata su due parole, conservazione e valorizzazione. Conservazione per anche i propri interessi, valorizzazione per la fruizione e quindi la processo, i processi di cultura, eccetera. Ora, naturalmente, gli archivi, facendo il discorso per gli archivi diocesani, perché l'interlocutore è il vescovo, occorre che all'interno delle realtà ecclesiali si sviluppi tutto un atteggiamento adeguato, moderno. Ecco perché sto parlando di regolamento. Occorre passare ad un regime di servizio. E questo servizio significa non soltanto ordinare con tutti gli strumenti di corredo, ma anche consentire, aprire alle consultazioni. E questo è il minimo che si debba fare. E naturalmente questo non lasciato al regime discrezionale del dominus che ha una res e che a discrezione apre, ma di un di chi è custode di un bene che ha valore universale. Questo è il discorso. Naturalmente, in concreto, questo significa istituzione dell'archivio. Vedete, si tratta semplicemente, molto spesso noi aspettiamo che si faccia, che gli eventi producono altri eventi. Però già nel codice, se voi prendete una piccola, due fogli che vi ho messi a disposizione, in cui si parla, il codice di diritto canonico del 1983 parla chiaramente degli archivi diocesani. Ai canoni 486, 487, 488 e 491. E i vescovi hanno diritto, dovere, di dare attuazione con gli opportuni adattamenti, si capisce, il codice è universale, e con le specificazioni che richiedono una tradizione presente. E quindi sugli archivi diocesani, oltre che il rispetto di norme, si è tenuti ad applicare delle situazioni concrete. Ripeto, in questi 4-5 articoli è praticamente recepito tutta quanta la sviluppo innanzitutto del ministero del vescovo e della curia vescovile, ma al tempo stesso lo sviluppo della richiesta che c'è, dell'attesa, delle considerazioni che c'è nei confronti dell'archivio diocesano. Quindi non c'è da attendere molto, anche perché gli archivi diocesani, noi non guardiamo sempre, io augurerei, certamente l'intesa, la revisione del concordato dell'84 ha messo delle attese, vediamo cosa si fa, cosa non si fa, però frattanto dobbiamo fare da noi, perché le ragioni del dare assetti nuovi sono intrinseche al nostro stesso bene che abbiamo e alla nostra responsabilità. Per esempio, credo che aggiornamenti del clero sarebbero necessari per far comprendere come è configurato l'archivio parrocchiale nel nuovo codice di diritto canonico. L'articolo, per esempio, 535, vi ho messo un altro foglio, una breve sintesi di richiamo. E ora dovremmo domandarci, di questa dimensione, quanta attenzione si fa? Lo signori che sono cancellieri mi dicano, c'è oggi la consegna dei beni? Vedete, sono degli aspetti problematici che nella prassi concreta molto spesso oggi vengono sottovalutati e che poi determinano dei guasti a distanza di incalcolabile valutazione. Prego. Dica della diocesi. Sono il cancelliere della curia di Roma. Benissimo. Ecco, mi permetto di chiedere di osservare. È vero che si deve passare da un regime discrezionalista a un regime di servizio, però gli archivi sono sempre un bene della Chiesa E in quanto bene della Chiesa devono rispondere alla comunità. Certo. Pertanto è successo quello che possa succedere ancora, che documenti, anche se risalgono a secoli o paio lontani, a riportati di luce potrebbero evidentemente, anche se da studiosi, essere un gran servizio alla Chiesa, che forse è meglio che restino nascosti nell'archivio. Beh, attenzione, una risposta precisa: c'è il codice, il canone, il quale parla dell'archivio segreto. Primo. Seconda cosa: in tutti gli archivi di questo mondo ci sono i settori non aperti al pubblico, in tutti gli archivi, per esempio gli archivi dei tribunali. Gli archivi dei tribunali sono prodotti, sono consultabili soltanto le sentenze, a meno che non ci sia un certo periodo di anno. È chiaro. Ora, in ogni archivio di Stato o di ente, sono i settori riservati. E certamente che c'è. E certamente che c'è, come no? Perché? Un motivo è ben preciso. Va garantito in maniera notevole, se non assoluta, il rispetto delle persone. Né si può andare in qualunque archivio di Stato, centrale o periferico, e si può chiedere tutto. Si chiede tutto quello che è consultabile. E infatti negli inventari degli INI c'è tutti i settori consultabili. Ma questo non vuol dire che tutti i settori di fatto sono ordinati per la consultazione. O si danno gli strumenti conoscitivi. Questo in tutti gli archivi. Anche l'archivio centrale dello Stato, anche gli archivi di Stato di Trento, di Venezia, di Lecce, di Bari, di Napoli, questo è scontato. Gli archivi del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Ministeri sono segreti. Prego. No, io non sono attivista, frequentatore del Ministero. Bisogna distinguere che negli archivi di Stato c'è un limite solo di anni, per cui sono 70 anni, 50 anni, dipende. In alcuni casi, archivi di Stato di Roma, centrale dello Stato, persino 30 anni, con cancellazione dei nomi, ma poi in realtà i nomi si sono sugli altri. All'archivio segreto Vaticano ci dipende pontificati, per cui si arriva a una certa data. Ma tutte le carte sono accessibili. Una volta che siano state inventariate, no. Negli archivi di Stato sì, c'è una specificità degli archivi segreti che è propria degli archivi ecclesiastici, io credo, anzi c'è qualcuno degli archivi di Stato pubblica, se effettivamente c'è questa peculiarità, ma a me frequentatore non mi è mai capitato di sentire dire che una cosa non era visibile, perché non era inventariata. Mi permette una replica. Lei non lo sa quello che non è consultabile, perché agli studiosi vengono dati gli strumenti conoscitivi, perché non tutti i settori. Scusa Palese, ho frequentato parecchi archivi di Stato, in parecchi archivi di Stato sono andato anche in magazzino, si può vedere praticamente tutto. Ho ordinato degli archivi ecclesiastici, quello della mia diocesi, l'ho ordinato tutto di più, so anche cosa c'è, cosa si può vedere, cosa non si può vedere, ma c'è una differenza appunto che è alla base dell'archivio di Stato e una differenza che sta alla base dell'archivio. Certo. Questa è una precisazione che va fatta. E lei nell'archivio dei tribunali ha potuto menzionare? Non è entrato e non entrerà. E vado a vedere che non entra. Cioè, attenzione, il concetto, guardi, non è il regolamento che poi recepisce. Per noi ogni legislatore a un certo punto può dare anche delle regole. E anche nell'informazione. Regole oggettive fondate sulla garanzia di rispetto della buona fama delle persone. Questo è il punto principale. Un conto è andare a discriminare sul contenuto del singolo atto, un quindi il singolo atto è nuovo per la fama promessa del vissuto nel 400, è un discorso come quello che faceva prima che ingegnere potrebbe anche far pensare che questo atto venga escluso dalla pubblicazione. Sì, sì, capisco molto bene. Guardi, l'archivio segreto dell'archivio Scovili non sono carte coperte dal segreto, ma sono carteggi della cui conoscenza è soltanto il vescovo e la cui consultazione è esclusiva del vescovo. È chiaro? Quindi come tale, se è denominato in questa maniera, è perché soltanto il vescovo ha le chiavi di quell'archivio e sono l'archivio, è presso di lui. Ecco, data la risposta in maniera... È chiaro? Quindi non ci sono fondi segreti, ma c'è l'archivio segreto del quale ha la conoscenza soltanto il vescovo e dalla cui gestione è soltanto il vescovo e qualche altra figura legata intimamente all'attività ordinaria del vescovo. Quindi a volte su queste c'è una non informazione della legislazione canonica. Io credo che bisognerebbe essere molto precisi su questo punto. Circa la consultabilità delle carte, appunto, è nel codice, appunto, nel codice, sto facendo riferimento preciso al codice. Per quanto riguarda la consultazione, noi nel regolamento, per esempio, diciamo una cosa del genere, l'articolo 34, la consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia liberalità, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi, sia nella consultazione dei documenti. Sia regolata l'apertura da opportune norme. L'archivio segreto, l'archivio di Stato fino a tale data, l'archivio centrale dello Stato fino a tale data, ogni archivio autonomamente da consultare fino a questo periodo. Anche perché è molto semplice, attenzione, che è dentro all'organizzazione archivistica, un fondo non ordinato, ad esempio, non è mai consultabile finché non viene ordinato. Quando è ordinato, garantito, il concetto è sempre questo, garantito il diritto alla onorabilità che ogni persona ha. E poiché negli archivi ecclesiastici si parla prevalentemente di persone, garantito questo, il resto... Ma per essere molto concreto, sì. Ecco, si vede, sulla corrispondenza, e certamente certe lettere, io ho presente di lettere che riguardavano il periodo della resistenza, su persone ben precise, su cui non, perché un archivio ecclesiastico possa essere attratto in disperazione. Ma ci sono persone ancora più concrete, potrebbero essere ancora fascicoli che riguardano il 68, che riguardano Volete distribuire un po' di copie del regolamento che abbiamo qui a disposizione in modo tale che molte cose si risolvono e qui all'inglese sono finiti? Erano più dei 25, ne abbiamo fatti, questa era la previsione. Comunque potete, c'è tutto l'articolo terzo in cui noi proponiamo alcune norme, però ecco, sia ben chiaro che appunto proprio per passare dalla discrezionalità, dal regime di discrezionalità al regime di servizio, ogni archivio deve avere il suo regolamento. E il regolamento, per prima, deve essere rispettato dall'archivista stesso. Ecco perché è importante che ogni vescovo faccia il regolamento per l'archivio. E di fronte ai regolamenti, tutti dobbiamo rispettarli. No, devo dire che il regolamento deve essere dato tenendo conto un archivio storico è un bene. Certo. O ci smettiamo su questo punto, se io affermo che l'archivio storico, anche ecclesiale, è un bene culturale, vuol dire che un bene. Quindi deve essere un bene che deve essere messo a disposizione di tutti, con determinate criteri, rispettando la alla sedia di alcune persone, oppure chiedendo conto anche di una istituzionalità molto sensibile alla possibile offesa di persone. Però direi anche chiedendo conto che non possiamo pretendere che vedendo i nostri archivi poi si faccia la storia come una predica. Io ho della gente che viene da me, tira fuori dei documenti, esclude quelli che non vanno bene, tira fuori quelli che vanno bene altre tesi. Vabbè, qui è serietà scientifica. Devo mettere a disposizione tutto. Io ho dei documenti in archivio visti da due persone con mentalità completamente opposte. L'hanno osservato per un determinato periodo della storia trentina. Uno è arrivato alla conclusione e un altro è arrivato a un altro. Però guardi, però D'Olivia, certamente poi le interpretazioni, lo studio alle vicende dello studioso, no? Naturalmente la documentazione è documentazione. Noi per esempio, per cautela, linea generale, all'articolo 44 proponiamo documenti fino a 70 anni, ma questo per una normale regola di gestione. Bisogna consentire l'ordinamento, bisogna consentire la redazione dell'inventario, bisogna consentire la redazione degli indici, cioè bisogna consentire la consultabilità, perché altrimenti si rischia, come si è rischiato e come è segnata purtroppo la storia di tanti archivi ecclesiastici, che vengono depauperati. Ora, nel mondo, bisogna anche pur dire queste cose, che nel mondo dei frequentatori degli archivi c'è una categoria, sia pur minoritaria, ma molto nociva, quella dei ladri. Studiosi ladri. E questo ormai, purtroppo, è una minoranza che però segna in maniera negativa la frequentazione degli archivi. Ora, bisogna prendere tutte le giuste cautele per che questi beni siano conservati in maniera integra per poter essere trasmessa. Ora, ogni archivio prende le sue cautele. Ecco perché occorre che l'archivio ecclesiastico si definisca come un istituto che non è di Tizio, di Caio e di Sempronio, e si apre per il professore Y e si chiude per il professore Z. Si apre per quell'equipe che viene presentata da sua eminenza oppure viene presentata dal signor parroco. È un istituto che funziona per tutti, però funziona secondo norme che sono uguali per tutti. Ecco perché occorre promuovere la modernità dell'archivio. Io credo che questo, noi siamo sollecitati non soltanto dalle norme canoniche, ma siamo sollecitati anche da questo sviluppo di dialogo che verremo chiamati tra non poco a dover fare, se vogliamo appunto l'intesa, l'articolo 12. Articolo 12 nel quale poi ci sono dette tante cose. Tutto occorre istituzione, gli archivi saranno iscritti in elenco preciso, come tutti quanti gli altri enti ecclesiastici di rilevanza giuridica, dovranno avere un regolamento, dovranno avere un direttore qualificato, dovranno avere dunque gli elementi fondamentali della gestione: apertura, orario di apertura, calendario di apertura. In questa maniera credo che tutti, mettendoci di fronte all'osservanza di norme precise, credo che anche l'istituzione sarà in grado poi di fornire, certo, da parte degli archivi ecclesiastici e degli apparati organizzativi ecclesiastici occorre un supplemento, perché se abbiamo ben conservato, questo non vuol dire che possiamo ben gestire come abbiamo fatto finora. Forse occorre un'accelerazione nel nostro ammodernamento. Prego, signore. Io vorrei esprimere il desiderio di procedere un po' con ordine, perché mi pare che abbiamo fatto delle altre fasi. Allora, vogliamo trattare prima l'archivio storico e poi l'archivio corrente. Continuiamo a passare da una parte all'altra. L'archivio storico, qual è la data che abbiamo per consultare gli ultimi documenti? 70 anni avete detto. Monsignore, altro è la consultazione, altro è la configurazione dell'archivio storico. Perché l'archivio storico, l'afflusso, il passaggio dal corrente allo storico deve essere determinato all'interno, mi permette di aggiungere, perché poi rispondendo integro e sviluppo, di una di una configurazione moderna che il codice sollecita, che la curia vescovile deve darsi. La curia vescovile non è fatta dalla cancelleria. La curia vescovile è fatta da tutto quell'insieme di uffici, di persone, uffici ed organismi che collaborano col vescovo. Occorre anche che all'interno della gestione direttiva delle diocesi, delle curie, ci sia un ammodernamento. Naturalmente in questo ammodernamento della curia, naturalmente c'è anche il passaggio, verrà la questione, dove l'hanno fatta, le carte degli uffici, quando finiscono di stare nell'ufficio e quando debbono passare nell'archivio di deposito e nell'archivio corrente? C'è una regola fondamentale, pratica conclusa, di fatto quella pratica è destinata all'archivio storico. Però le norme vanno date e queste norme non può darle la scienza archivistica. La scienza archivistica dice, l'esperienza archivistica dice delle esigenze, ma questi sono atti decisionali che il vescovo, ciascun vescovo deve prendere. Naturalmente lei sa, conosce molto bene che nell'attuale codice canonico è configurato anche, oltre il cancelliere, il moderator curie, colui che sovrintende al ben funzionamento di tutto quanto l'apparato, distinto dal, almeno giuridicamente, dalla figura del vicario generale, che poi si possono identificare nelle piccole realtà per non moltiplicare le persone, d'accordo. Ora, si tratta, vede, come di problemi che si vivono, che ciascuno di oggi sta vivendo e sulla quale ciascuno di oggi si deve prendere determinazioni in base a norme date e in base a queste esperienze che è bene comunicarsi, come fate voi e come facciamo noi. Perché di fatto sono numerose curie le quali si sono dato una configurazione precisa in settori, uffici, a secondo le varie, perché poi nel mondo ecclesiastico c'è il regime della ricchezza istituzionale, della varia, una ricchezza variegata, ecco. Beh, Monsignore, si possono dare delle indicazioni, ma io credo, per esempio, noi, negli articoli 37, 38, diciamo, gli studenti di scuola, articolo 39, diciamo, facciamo delle indicazioni, abbiamo dato delle indicazioni che risultano dall'esperienza un po' italiana, generale. Diciamo, per esempio, gli studenti di scuola media superiore ed universitari possono essere ammessi alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca. La presentazione solo la capacità di individuo. Senta, Monsignore, io credo che non mi convenga mai, anch'io sono direttore di curia, fare l'esame di paleografia e di diplomatica, io mi risparmio. A un certo momento, di fronte al fascicolo, se uno va avanti, se non va avanti si ferma. Certo, io so bene. No, di scuola media superiore, attenzione, superiore sto parlando. Né di paleografia, né anche di latino, logicamente, la maggior parte delle nostre... Monsignore, ma siccome... Ma certamente no, ma è chiaro, no? Ma non in tutti gli archivi si possono introdurre i minori di 18 anni, per esempio. I maggiorenni, è naturale, no? Monsignore, senta, io vorrei dirle questo, già che il fa una domanda, io rispondo, vivacizziamo l'ambiente. Ma io credo, siccome, esatto, ma io credo che di fronte ad uno studente presentato da un professore, credo che non convenga, mi permetta, non convenga fare un esame di cui peraltro non viene manco compensato, come invece si fa in tutti quanti gli altri esami. A un certo momento, ripeto, si ferma. Adesso lei mi fa l'altra domanda, la riproduzione dei documenti. Da che mondo è mondo, io credo che in tutti gli archivi, qui c'è il potere discrezionale del direttore, che deriva da un fatto molto preciso, anche dalla conservazione stessa del documento. Perché se l'archivio non è attrezzato in maniera tale da fare una riproduzione che non leda il documento stesso, non è la macchina fotocopiatrice normale che può fare la riproduzione dei documenti. E naturalmente non può rischiare di manomettere, di lesionare il documento, deteriorare il documento. Le alcuni attributi archivi permettono appunto la riproduzione, altri no. C'è una norma comune federale. Ma veda, il codice di deterioro non ne parla. E il regolamento, siccome l'archivio dipende da un'autorità ecclesiastica, l'autorità ecclesiastica dia delle norme. E dietro quelle norme, e quelle norme si rispettano. Certamente, le norme ispirate ad una certa liberalità, ma al tempo stesso una certa cautela. Perché se bisogna aiutare, bisogna però aiutare anche quelli che verranno. Consumato, distrutto un documento. Ma anche le norme degli archivi di Stato che possono essere applicate. Cioè, esatto. Ormai non si possono più fare. Un momentino, prego. Sì, ma anche con il Stato si va. Ma la licenza è stata. Io ripeto, vedete, stiamo entrando nel vivo delle questioni in cui occorre, io credo, lo scambio delle esperienze allargate. Prego. Sì. Volevo dire, io vengo da una realtà diocesana che è diversa dalla vostra, perché è una diocesi del Basso Piemonte che appartiene alla regione episcopale Ligure, quindi un posto un po' tortone, è un posto un po' strano, e mi sembra che rispetto a quella che è la realtà che conosco e credo che sia anche una realtà abbastanza diffusa, perché poi un po' di contatti ci sono, qui forse si è già molto avanti o troppo avanti. Cioè mi pare che questa proposta di regolamento dell'archivio ecclesiastico sia una cosa irrealizzabile perché mancano le strutture di base, perché magari ci sono gli archivi e ci sono persone anche competenti che sono preposte agli archivi, ma non hanno tempo di seguirlo. Non ci sono inventari seri, ci sono elenchi di consistenza quando va bene, perché si viene da una tradizione in cui l'archivio era semplicemente ordinato sugli scaffali e a vista le cartelle si vedevano, si riconoscevano e c'è questa titolazione che permette di, per chi è consueto con quell'archivio, che permette di orientarsi e di cavarsela. Si viene da una realtà in cui esistono magari le commissioni d'arte sacra diocesane, ma l'arte sacra si ferma ai quadri, alle suppellettili ecclesiastiche e i documenti come bene culturale. È una cosa che è sul nuovo codice di diritto canonico, che è in un documento della CEI anche, ma nelle diocesi non c'è. E tante volte non c'è neanche nelle parrocchie. Se non c'è qualche archivista, qualche sacerdote, qualche persona personalmente attenta, preparata, sensibile, mancano le risorse, quindi materiali, anche in termini di finanziamenti, e in termini di persone, per poter creare una struttura di servizio o anche solo degli archivi che siano ben costruiti, strutturati, gestiti. È possibile, chiudo e me ne vado, di fronte a questa realtà che credo sia non sia in grado di sostenere una proposta del genere, è possibile cercare di sollecitare la CEI affinché i vescovi in qualche modo, insomma, intervengano, facciano un qualche cosa, emanino dei regolamenti, perlomeno nelle commissioni d'arte sacra venga esplicitamente compreso anche l'archivio? No. O comunque, cioè, ci sia un qualche cosa. No, sì. Mi permette una cosa. Sì. La commissione d'arte sacra ha le sue competenze. O rientra lì almeno. No. Vabbè, sono artifici dei quali bisogna anche correggere giuridicamente le cose. Altra la commissione, una commissione, altra è l'archivio. L'archivio. Vabbè, caro, non è una struttura parallela come c'è nel Ministero dei Beni Culturali. C'è la direzione per gli archivi e la divisione per. Andremo verso questa forma, andremo probabilmente. Sarebbe magari anche importante, se fosse possibile, avere un referente ecclesiastico parallelo ai referenti laici. Ma vedete, a un certo momento occorre comprendere dal di dentro le situazioni. Guardi, ci sono delle felicissime realtà, anche qui nel nord-est, Trento, è un esempio. Ancora, Venezia, è un esempio. Quindi, è bene non generalizzare per quelle che mi vengono alla mente, ma io conosco tanti altri archivi. E adesso, sul cui funzionamento, io credo, non bisognerebbe parlare per sentito dire, generalizzando momentanee disfunzioni o lacune o piccoli incidenti, perché io dico che all'interno delle varie realtà diocesane, delle 15 diocesi del Triveneto, ci sono delle situazioni significative, esemplari, ne ho indicate già due di cui ho conosciuto direttamente, le altre non ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere direttamente, fronte alle quali io credo c'è da assumere un atteggiamento del rispetto per una realtà che si sta mettendo in essere con tutta la serietà. Ora, e credo che anche nelle altre, è vero anche questo, che non tutti gli archivi sono completamente ordinati, non tutti gli archivi sono completamente forniti di inventari e quindi di strumenti di ricerca, però vive il Signore. In quale archivio è tutto già ordinato per poter essere? Anche negli archivi in cui c'è personale a tempo pieno, con direzione, sottodirezione, è chiaro. Perciò non diciamo, aspettiamo che tutto sia ordinato, completo e finito, anche perché gli archivi si vanno facendo. Ora, io credo che però è importante che ci si dia delle regole, ci si dia delle norme, e su questo occorre uno scambio notevole di esperienza. E si dia, a un certo punto ognuno assume la responsabilità. L'ente ecclesiastico ha la responsabilità di aver ereditato questo bene? Ebbene, questo bene responsabilmente lo deve gestire in maniera che sia un servizio secondo un regolamento, come tutti i servizi. Come tutti i servizi sociali, come tutti i servizi che ci sono nella società, vanno regolamentati. È questo che bisogna far presto. Proviamo un attimo, che là ci deve arrivare. Un'altra domanda, spero che qualcuno dia qualche esperienza, per quali finalità, per quali scopi si possono dare in consultazione dei documenti? Perché non a tutti si può dare documenti. Per esempio, a noi vengono far perdere tanto tempo che mai gente che viene per far l'albero genealogico, interrogare per esempio e consultare i libri parrocchiali. Possiamo dire di no? Sì, se vuoi rispondere a qualcun altro, intanto io prendo un po' di respiro. Prego. Biografia di Romano Gerdini, io mi ricordo che si esisteva già allora per dire che se entriamo come sacerdoti in un archivio, prima di essere archivisti, dobbiamo essere sacerdoti. E quindi chi si avvicina deve vedere noi, sacerdoti che sono in un'altra, invece che informazioni su un bene, informazioni su quel bene culturale, offriamo cultura. E quindi a me sembra un delitto dire prendiamo tempo perché stiamo lì un quarto d'ora, un'ora, due ore a aiutare uno che non sa bene il latino a tradurre un testo che viene difficile. Non so, ci sono tanti preti che mi dicono che studiamo, ma perché perdi tempo? E poi li vedo che accompagnano in Puglia i loro parrocchiani per trattare un campo, per comprare un campo. E stanno lì tutta la mattina, il lavoro, e offrono anche loro un servizio. Ma questo è il documento, perché gente che non sa apprezzare e vedere. Ma monsignore, ma il direttore dell'archivio è responsabile della sua gestione e quindi della ammissione dei consultatori, il quale chi entra in un archivio, come in tutti gli archivi, fa una regolare domanda. D'accordo, anche qua gli archivi di Vicenza, diciamo anche questo, direi sottoscritto si impegna a non deteriorare i materiali che sono in consultazione, a rispondere rispettare l'ordine e non adoperare lo scopo in contrasto con la serietà degli studi o comunque contro la natura e lo spirito dell'archivio stesso, perché i nostri archivi, diremmo nostri, li adoperiamo solamente per la curia, non per gli altri, non per il pubblico, non siamo mica obbligati per gli altri a dare in consultazione agli altri. Però Monsignore, Leone XIII terzo... No, Monsignore, guardi. Non voglio mica essere così severo. Ecco. No, Monsignore. No. Ma quando viene gente che non ha nessuna pratica di archivio, no, non ha fatto paleografia, non studia, viene qui un compagnino qualsiasi, viene a domandarsi per fare una ricerca, cosa devo dare? Monsignore, io credo, guardi, noi proponiamo una corretta impostazione. Quando diciamo, per esempio, abbiamo proposto di dire così, l'apertura, ecco, l'articolo 35, diciamo, l'apertura dell'archivio storico sia regolata da opportune norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica. Articolo seguente, guardi, Monsignore, guardi, abbia la pazienza. Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell'archivio dopo aver presentato una regolare domanda nella quale indica i fondi che intende consultare e i motivi della ricerca. È chiaro? Cioè, ma questo, Monsignore, vede, non deve risultare, a mio avviso, secondo un moderno funzionamento che significa riconoscimento di diritti e compimento di doveri, non può risultare da un suo giudizio, sì o no, se questo giudizio non è chiamato in maniera responsabile dalle norme di funzionamento stesso. Perché a un certo momento a domande generiche si danno risposte evasive, a domande precise non si può sfuggire. A un certo momento un corretto funzionamento di un archivio, studioso chiede, prima di fare, di formulare richiesta scritta, si danno in mano gli inventari o l'indice. Dopodiché lo studioso, il richiedente, formalizza la richiesta. E questo così funziona l'archivio. Ora, benissimo, vede? Siamo d'accordo. Monsignore, ma a un certo momento, se io, veda, le faccio un esempio. Quando viene, lei sa bene, c'è stato un archivista a Napoli, il quale ha descritto che la consultazione degli archivi è rappresentata da 5 categorie. Dagli studiosi seri, poi dagli studiosi impreparati, dagli studenti, dai curiosi, e dai giornalisti. A un certo momento che bisogna esercitare, diceva scherzosamente, le opere di misericordia corporale e spirituale. A un certo momento, di fronte agli studiosi, mettersi a servizio. Di fronte agli studiosi competenti, l'altra opera di carità, istruirli. Se si lasciano istruire. Di fronte ai giovani, chiedere le garanzie, la presentazione. E quindi che poi sappiano chiedere, perché naturalmente noi dobbiamo, io invoco, auspico, sto girando l'Italia, che tra responsabili di archivi ecclesiastici di Stato e centri di ricerca, dipartimenti, eccetera, ogni anno ci fosse perlomeno un incontro, ogni anno due anni, un incontro, perché tutto il mondo della ricerca non è che poi sappia il mondo degli archivi. E il mondo degli archivi potrebbe essere informato su quali versanti la richiesta, la domanda si sta alzando. Io credo che questo potrebbe essere un modo molto corretto, perché poi nella serietà della ricerca storica, informarsi delle fonti e dello stato delle fonti e dei depositi dove le fonti sono conservate. Ma viva il Signore, molto spesso noi abbiamo, sono rarissimi gli studiosi che frequentano gli archivi. Purtroppo, in Italia è così. Sono rarissimi. Perché non sono umili. Dobbiamo dirle queste cose. A volte si fanno delle grandi ricerche e lo studioso il quale le dirige, lo studioso il quale deve a un certo momento orientare, non conosce le fonti. Sono cose che capitano, insomma, il mondo è fatto anche di peccatori. E naturalmente di fronte a curiosi e di fronte a giornalisti, quell'amico diceva, bisogna esercitare la pazienza. La pazienza di accompagnarli alla porta delicatamente. Appunto perché, perdendo tempo con queste categorie, a un certo momento non si impegnano energia e tempo per servire adeguatamente, perché certamente l'archivio non è la fiera, l'archivio non è la standa. Naturalmente sta al direttore fare la cernita, e naturalmente la cernita si fa con le forme dovute della domanda, della richiesta. A un certo momento una richiesta generica, una domanda generica, trova una risposta sospesa. Sì, no, veda. E si rimanda di fatto. Mi ha visto per scoraggiare un ricercatore così su tantissimi. Cioè non è che bisogna sempre prendere di punta le persone che arrivano. Le persone che arrivano possono essere scoraggiate, ci si porta una montagna di carte inutili alla sua ricerca, perché si capisce che è quello dopo ancora si fa. È naturale. Senz'altro. Però secondo me, io sono un ex attivista del comune, prego. Questa vostra discussione è molto interessante. Io penso che sia parlato di regolamento. E ho sentito da lei, signor Parente, ogni curia, ogni soggetto deve darsi un regolamento. Giusto, è giustissimo che ogni soggetto deve darsi un regolamento d'archivio per poter regolamentare l'accesso all'archivio e soprattutto per poter regolamentare il contenuto dell'archivio e cosa e come deve, quando si deve versare. Però non trovo giusto che questo regolamento sia slegato da curia a curia. Pur mantenendo la specificità di ogni curia, ci deve essere un regolamento base, un regolamento tipo che determina sia per la curia di Vicenza, per la curia di Belluno, per la curia di Napoli, delle date ben precise. Quale materiale deve andare, si deve considerare che deve essere collocato in archivio? Lo Stato si è dato delle date ben precise, 40 anni, 50 anni, 70 anni. Ora, anche la curia deve darsi queste date, perché se io sono uno studioso e ho bisogno di consultare l'archivio di Venezia, e a Venezia trovo un limite di 30 anni, a Vicenza ne trovo uno di 40, a Treviso ne trovo uno di 70. Ecco, a un certo punto, questo va a scapito della curia. Questa data, determinati punti base, come lo Stato ha fatto tanti sbagli, ne farà ancora di più perché siamo fatti per chi lavora. Che non la sbaglia. Ma delle date ben precise e delle norme ben precise, ma sempre il mio modesto parere, che non ho avuto la fortuna di fare le scuole di archivistica, ma mi sono formato sul campo, devono essere date. Tutte le curie devono adottare un titolare comune. Veda, un momentino. E questo è un altro argomento, la parola titolare prendiamola dopo. Veda, lei viene da un'esperienza. Innanzitutto voglio dire una cosa. Questa proposta di regolamento che andiamo distribuendo, già i vescovi l'hanno ricevuto. I vescovi le hanno ricevute, perché il regolamento è stato elaborato dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che non ha nessuna autorità se non in quella morale del insieme dei soci che ne fanno parte. Prego. Da due anni. Cosa la colpa? Forse delle poste. Ora io non posso. Ora questa proposta di regolamento degli archivi ecclesiastici, le aggiungo questo, è stato elaborato da 5 archivisti del nord, del sud, del centro, dell'est e dell'ovest. di una commissione da me presieduta. Ci sono stati 3 anni di lavoro per, si capisce, le varie esperienze, definizione di testo, discussione, revisione, eccetera. Ora, questo testo a noi è stato peraltro anche chiesto, quando hanno saputo che lo stavamo facendo, la presidenza della CEI ce l'ha chiesto e non l'abbiamo. Un servizio che si rende da esperti di archivisti che l'abbiamo reso. Ma ripeto, a prescindere dalla richiesta della CEI e a prescindere dall'esito che ne ha avuto, noi l'abbiamo mandato umilmente a tutti quanti i vescovi, chiedendo loro, dicendo loro, è un servizio, si capisce, va adattato e va pubblicato con gli adattamenti opportuni con autorità propria. Io credo che bisogna assumere le proprie responsabilità. Ogni autorità deve diventare responsabile, proprio perché autorità, perché altrimenti non è autorità. Un momento, monsignor, scusi. Quindi a un certo momento noi l'abbiamo proposto. E aggiungo anche un altro elemento. Questo stesso regolamento è stato esaminato anche da studiosi e da competenti della commissione paritetica dell'intesa di rappresentanza statale. È stato trovato ineccepibile. E molto probabilmente sarà il modello allegato all'intesa o nelle istruzioni riguardanti l'intesa al quale ispirarsi, più di questo non posso dire, ispirarsi nel compimento degli atti di dovere che ogni autorità ecclesiastica, proprio perché è autorità, deve prendere, deve fare. Io non posso sostituirmi ai 215 vescovi d'Italia. Ogni vescovo è vescovo, ogni vescovo faccia il suo dovere, eserciti la sua autorità nel regolamentare. Ora, per quanto riguarda il titolario, è una questione che io vi ho segnalato, è una questione seria. Veda, quando noi parliamo di titolario, cosa significa? Significa come dare il titolo al raggruppamento delle carte. Ora, naturalmente il titolario riflette la molteplicità dei rapporti che l'ente ha. Quindi non può essere dato un titolario uniforme. Questo stiamo parlando, adesso un momentino, faccio una premessa, mi fermo. Quanto riguarda l'archivio storico, i titolari sono quelli che hanno avuto, da che sono nati, dalla loro santa madre. Perché purtroppo noi assistiamo a delle assurdità quando a un certo momento vengono ordinati gli archivi secondo titolari sovrapposti, inventati, estranei. La regola archivistica dice l'ordinamento delle carte è dalle carte stesse che deve, quando non c'è un proprio ordinamento, è le carte stesse che ce lo devono fornire, e quindi ricostruire gli aggruppamenti originari. Perché la parola titolario è una parola piuttosto moderna. Ora, naturalmente, il titolario lo deve avere l'archivio corrente. E qui il punto. E nell'archivio corrente e nel titolario non vanno, ecco, se mi permettete, non vanno presi da questo o da quel manuale. I manuali in archivistica servono per capire il problema, ma non per risolvere i problemi. Perché i problemi vanno risolti a Belluno, a Treviso, a Rovigo, a Vittorio Veneto, a Venezia e a Trento. L'archivio, ad esempio, altro è il titolario che si deve dare l'archivio diocesano di Trento, altro, corrente si capisce, altro è il titolario che si deve dare l'archivio della curia vescovile di Rovigo. Perché? Quello di Trento c'ha un contesto politico preciso. C'è una amministrazione provinciale autonoma con la quale sviluppa dei rapporti che invece la curia di Rovigo, credo, non sviluppa, perché è in un ordinamento, in contestuale diverso, per dire un esempio. Però nel titolario, credo, bisognerebbe formulare, indicizzare i rapporti che si hanno. Rapporti, la diocesi, il vescovo, la curia, perché in fondo la curia è l'espressione del vescovo, innanzitutto in se stessa come è articolata, cancelleria, uffici, tribunale, eccetera, commissioni, consigli, no? E questo già sto dicendo tutta una serie, e questo già è un prima, è una prima serie di titolari. Ancora, la curia vescovile ha rapporti con le parrocchie, mi pare che è tutta un'altra sfilza di titoli. Ancora, naturalmente, si fondono parrocchie nuove, si apre titolo nuovo, è chiaro, no? Ancora, la curia vescovile ha rapporti con i religiosi. Ci sono religiosi esenti, ci sono religiosi dipendenti, naturalmente, tutto il rapporto, vede i rapporti. Un momentino, scusi, questo lei mi ha dato l'occasione per approfondire un argomento che è delicatissimo, dove si gioca la consistenza moderna dell'archivio corrente e dove si gioca la conservazione della memoria, che proprio negli archivi correnti oggi non c'è titolario. Questo è il problema. Perché mentre ecco, c'è questa forma, noi non possiamo peraltro dare, per dire, e questo molto di più, per esempio, dare, studiare titolari per i parroci. I parroci sono messi in una realtà di responsabilità, trattano tante cose. La loro documentazione dove sta? Come è organizzata? Come si conserva? Occorrerebbe che in ogni curia si pensasse al modo come far amministrare la memoria nella parrocchia. E sono problemi che si pongono. È chiaro? Ancora, la curia non è finita. E la curia, il vescovo, ha rapporti con il centro regionale, la conferenza episcopale, altri settori, col tribunale regionale, altri rapporti. La curia ha rapporti con la conferenza episcopale italiana, sono rapporti, vari uffici nazionali, vedete quanti titolari escono? Ancora, la curia vescovile ha rapporti con il centro del governo papale, e sono è tutto un altro. Ora, questa è, io credo, la parola rapporti, bisogna afferrarle e descriverle. E a un certo punto, ordinare l'archivio corrente. Questo significa, attenzione, oggi io vado in giro e dico, e la dico anche qui, c'è molta gente esperta in diritto canonico, ma non di pari grado e di pari vastità ci sono esperti in cultura del governo. È una cosa ben diversa. Cultura del governo. Ora, chi governa deve avere la visione dell'insieme, e chi collabora del governo non può non accettare questa cultura del governo, perché altrimenti saprà fare il singolo documento, saprà risolvere la singola questione, ma poi non avrà, perderà l'insieme. E in questa mancanza di insieme, cultura del governo, non c'è la visione del rapporto tra ente, tra ente e persone, e a un certo momento poi c'è questo disordine, che il titolare è appunto questo, deve essere inventato. Inventato in ogni curia. Naturalmente la definizione dell'inventario del titolario significa avere una curia ordinata, che non si risolve nell'ufficio matrimoniale, nell'ufficio matrimoni. La curia è tutto questo insieme di persone, vedi i vicari, ancora di uffici, commissioni e consigli. Prego. Una raccomandazione. Quindi subito ringrazio, visto cosa forse utilità. E mi pare che sia l'associazione acquistica ecclesiastica che si prende tutta la responsabilità. È responsabile l'associazione acquistica ecclesiastica, no? Vedo nel capitolo 6 la riproduzione, qua si parla di microfilm o dischi. Però la stessa gente ha emanato anche prezzi sulle fotocopie da fare per gli atti di archivio. Per fortuna la CEI non verrà a fare il controllo delle cose. Ma siamo in contraddizione? Ma no, in contraddizione. Veda, ci sono, lei monsignore conosce bene, che ci sono dei sistemi di riproduzione che sono possibili. Se in un archivio c'è la microfilmatura, mica possiamo determinare tutte le specificazioni. Ma le fotocopiature altro è lo stampato, se c'è un documento a stampa è anche un documento manoscritto, non possiamo prevedere tutti i casi. Ecco perché c'è un direttore, il quale ha la sua testa e ha la sua responsabilità. Monsignore, ma è ovvio, lei sta chiedendo cose ovvie. Non dico, lei, concluda lei. Lei ha la sua sensibilità, la sua cultura e la sua responsabilità. Ma lei è direttore. Non è vero, non è in contrasto. Cioè io direi questo, forse, vedete, è la prima volta, io comprendo bene il desiderio, però vedete bene che io credo che forse sarebbe necessario che voi, ecco, direttori di archivi, di cancellieri, innanzitutto queste cose noi le discutiamo abbondantemente quando ci sono i convegni nazionali. L'associazione archivistica ecclesiale fa raduni ogni 2-3 anni e si discutono problemi di questo genere. Queste cose, grazie a Dio, stanno nascendo perché siamo forse un'associazione viva di gente nella quale, se lei parteciperà, se lei verrà, vedrà che ci sono anche tanti archivisti di Stato, sovrintendenti, con i quali abbiamo l'intesa, l'abbiamo già firmata da molti anni e già si lavora insieme, c'è una collaborazione fecondissima, ricchissima di risultati. Ora, naturalmente queste cose, forse, ecco, credo che a livello di Triveneto, forse dovreste vedervi un po' di più tra di voi e scambiarvi le esperienze e dirvi: tu come fai? Tu come non fai? Fai meglio? E forse converrebbe. Perché naturalmente è difficile che lei si incontri con quello di Cefalù o di Catania, ma è facilissimo, probabilmente lei telefona ogni settimana al collega vicino, della diocesi vicina. E allora converrebbe unirsi un pochettino, discutere, e se è necessario darsi un unico regolamento, se è necessario. Ma se le situazioni richiedono qualche diversificazione, la si può pure accettare. L'importante è che c'è lo stesso stile. Che insomma non vada lì in un archivio e deve fare la novena a Sant'Antonio e invece nell'altro riceve pure il caffè, insomma, ecco. Prego. Per carità. L'associazione archivistica, come ha fatto questo bello canovaccio sociale, certo, di regolamento, noi potremmo pregarla di fare anche uno schema di titolazione dell'archivio corrente, non obbligatorio per nessuno, però è giusto dire che le curie sono diverse, la una l'altra è diversa, però fondamentalmente certe cose sono comuni a tutte le curie, quindi un canovaccio anche di questo. Veda, le dico subito, noi questi problemi li abbiamo già affrontati a Napoli nell'ultimo convegno. Prego, poi rispondo. Ecco, Luigi Pezzotti, aggiornamento dei titolari dell'archivio corrente della Curia diocesana e della parrocchia. È stato pubblicato nella rivista dell'associazione Archiva Ecclesie, se vuol prendere appunti li prenda. Archiva Ecclesie, volume 3031, 1987-88, alle pagine 79-89. Ancora, vede, queste cose noi le discutiamo. Ancora, in un altro congresso degli archivi dell'associazione, quello di Napoli del 93, c'è stato Andrea Foglia, Cremona, il quale ha affrontato quest'altro tema, curia diocesana e archivio, problemi e prospettive. Pubblicato questo studio ancora in Archiva Ecclesie. Vede che è una rivista che esiste presso tutti gli archivi di Stato. Guardi caso, non forse non in tutti gli archivi diocesani d'Italia. Archivio Ecclesie 38-39 1995-96, forse sta in arrivo chi è abbonato e chi è socio, alle pagine 87-99 39 38-39, bene, sono problemi questi qui aperti, è chiaro? In cui naturalmente si presentano riflessioni su esperienze che si propongono per poi adottarle, perché la diocesi è diocesi, ha una configurazione ben precisa e ha è una unità organica sotto la diretta responsabilità di un vescovo, e quindi a un certo punto non ci può essere il modello, c'è il canovaccio, c'è uno schema, c'è una proposta che vale come proposta, non ha nessun valore, questo è soltanto da discutersi, ha il valore degli argomenti che porta, della chiarezza che ha, se ce l'ha, delle indicazioni che fornisce, se sono valide, nient'altro che in se stessa, ma non ha potere di regolamento. Se non c'è a un certo momento un atto con il quale il vescovo dice: io vescovo di Forlì in Popoli, visto il mio pubblico con questo decreto l'osservanza decreto con questo l'osservanza di questo regolamento, e mette questo, altri ne aggiunge, diminuisce, l'importante insomma è che ci siano delle norme. Prego, scusi monsignore, non ho parlato. Si presenti, abbia la bontà. Don Ronzini, sono il cancelliere di Venezia. Anche per incoraggiare monsignore la voce un po'. Noi abbiamo avuto in mano l'anno scorso ancora quella bozza, sì, e l'abbiamo elaborata con molta tranquillità, dedicando però parecchie ore di lavoro. Parecchie ore. L'abbiamo inserita intanto come sezione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, c'è anche la sezione archivi. Certo. È una scelta nostra. Ecco. E poi siamo trovati tutti i vari direttori, come il cancelliere guidava la discussione, l'abbiamo elaborata. Naturalmente in alcune cose siamo stati non proprio pedissequamente legati a questo, per esempio i documenti relativi al foro interno. Il direttore dell'archivio è uno storico e ha interesse che venga pubblicato tutto. La storia della monaca di Monza non si sarebbe mai saputa se non fosse uscita dagli archivi storici. Vengono fuori i peccati e le virtù. Si manda all'inferno, ma si fanno i santi consultando gli archivi. Nessuna paura perciò. Passato 100 anni, abbiamo messo, no? I documenti relativi al foro interno non li distruggiamo. Sappiamo le norme del codice, ma non le mettiamo qui dentro. Sono conservati con rigorosa segretezza in un'apposita sezione di atti riservati, non consultabili prima che siano trascorsi 100 anni. La nostra scelta, fatta a Venezia. Così. Benissimo. Comunque bisogna avere pazienza, vederlo, studiarlo, elaborarlo. Esatto. Ecco. Esatto. E siamo arrivati quasi all'approvazione, ma non ancora, devo darla adesso alle collaboratrici. No. Devo darla, perché manderemo quella ufficiale, no? Quella approvata, gliela mandiamo. Siamo un po' gelosi per adesso ancora, no? Perché non è ancora approvata dal Patriarca. Patriarca, senz'altro, lui è un testo di lavoro, guardi, è un testo di lavoro. Lui mi farà, leggerà tutto, poi mi manderà giù le sue osservazioni, articolo per articolo. Ma è un testo di lavoro, vede, è un testo di lavoro. Perché è molto, molto attento. Beh, dopo vediamo un momento. Sì. Chiedo anche alla dottoressa Romanelli, che è la direttrice scientifica dell'archivio storico nostro. Sì, sì. Ed, ecco. Poi sui titolari, mi trovo in mezzo alle mie carte una ipotesi di titolario tipo per le cancellerie delle curie vescovile, una proposta della CEI, io ce l'ho, c'è, è qui, è arrivata anche questa al mio vescovo e me l'ha passata. Dunque non sono novità ciò che vengono dette. Non so quando, perché me la trovo in mezzo qua, ma qualcuno me l'ha data, ecco. C'è stato il c'è un titolario lungo. Poi inoltre ho anche, non è per dire le cose belle o che siamo più bravi, ma ho anche il titolario dell'archivio del Patriarca, proprio voce per voce, fatto di 7 pagine, elaborato anche questo con fatica da parte di qualcuno, ed è molto interessante anche questo. Ma bisogna lavorarci, bisogna dietro, non venire qua e trovare le soluzioni, la pappa pronta. Non so, bisogna... dell'archivio, ipotesi di titolario, tipo per le cancellerie delle curie vescovili. Dunque corrente. Perché il titolario riguarda, abbiamo sentito, l'archivio non storico, ma quello corrente. Corrente, naturale. Basta. Come vedete, io vi auguro che possiate riunirvi e scambiarvi questa esperienza. Perché oggi è importante questo. Prego, signor, venga. Un momentino, guardi. Veda che lei stasera si debba accusare di omissioni, pazienza. Allora, incoraggiato dai confratelli di Venezia, io sono l'archivista di Treviso e unisco anche l'esperienza che ho avuto in cancelleria prima di fare l'archivista. Ecco, mi pare che per quanto riguarda la discussione di quest'oggi, io vorrei spezzare una lancia a favore della dignità degli archivisti e dei cancellieri, perché mi pare che scivoliamo su buce di banana, tipo le fotocopie o altre cose di questo genere, che fanno parte sì del servizio che ogni giorno prestiamo, però insomma in definitiva c'è un servizio più grande che è quello della missione del prete, ma è anche soprattutto la missione della cultura. Ecco, io porto l'esperienza della nostra diocesi. Noi abbiamo un vescovo che è estremamente attento all'aspetto culturale, storico e archivistico, non solo della curia ma anche delle parrocchie, e ha ordinato una visita speciale, accanto alla sua visita pastorale, a tutti gli archivi parrocchiali e beni culturali delle parrocchie. Chi la svolge? La svolgo io in persona e riferisco poi. No, questo è interessante, già l'archivista della curia diventa collaboratore quasi. Sì, di fatto realmente è così. E poi ovviamente il decreto viene allegato al decreto dello stesso vescovo per quanto riguarda l'ordinamento dell'archivio dei beni culturali. Prima cosa. Seconda cosa, vorrei che ricentrassimo un po' l'attenzione su alcuni problemi che dall'esperienza degli archivisti e penso anche dai cancellieri viene continuamente alla luce. La prima è questa. Intanto la collocazione reale dell'ufficio dei beni culturali all'interno della diocesi, perché anche a livello di CEI c'è stato uno slittamento, un andirivieni continuo e di fatto questo ha impacciato un po' i singoli vescovi e tanto più dopo i collaboratori nella collocazione reale di questo ufficio. So che anche nella conferenza episcopale regionale c'è stato, nel nostro Triveneto, c'è stato un aggiustamento continuo, ecco perché forse non si vogliono togliere competenze ad alcune commissioni, non si vuole esagerare la nascita di altri uffici, eccetera. Quindi mi piacerebbe sentire qualche precisazione. Il secondo problema che mi pare riguarda un po' l'archivistica attuale e quella futura è proprio la elefantiasi della pastorale attuale della Chiesa rispetto alla realtà della sedimentazione documentaria. Lei, Monsignore, ha già un po' aperto alcuni orizzonti, però di fatto mi pare che dal punto di vista archivistico non si è ancora trovato il modo per preparare o conservare per la storia tutta la ricchezza della pastorale di oggi, che non ha paragoni in tutte le epoche della Chiesa dal punto di vista della produzione. Ecco, si immagini la presenza e anche la significanza all'interno delle diocesi, almeno della mia, di uffici della pastorale sociale del lavoro, della pastorale catechistica, tutti questi aspetti che di fatto fanno parte della pastorale diocesana. Un terzo problema è il ruolo del moderator curie all'interno di questa produzione documentaria, perché abbiamo forse troppo ammassato attorno alla figura del cancelliere, è un po' anche il sistema americano, ho visto, è così, tutto quello che deve essere di fatto solamente la produzione giuridica del vescovo, ma non la produzione pastorale di tutti gli uffici diocesani. E allora tante volte i cancellieri vengono, per così dire, messi da parte a favore dei direttori dell'ufficio XY, e con quale finalità archivistica allora? E allora il moderator curie come si colloca di fronte a un ingigantimento della documentazione di questi uffici. Un quarto problema che era stato un po' affrontato mentre prendevo caffè con la dottoressa Romanelli. La situazione, il dialogo fra i fondi storici e il titolario corrente delle diocesi e anche delle parrocchie. In diocesi nostra, grosso modo, abbiamo raggiunto un'intesa per il titolario parrocchiale che viene pubblicato appunto in occasione della visita dei vescovi. Ma mi pare che, da piccola esperienza che ho, ogni parroco in genere abboraccia un po' le cose meglio che può. Ecco, forse io non invoco un autorevole pronunciamento dell'Associazione Archivistica Italiana, ma almeno una omogeneizzazione qui nell'ambito triveneto di alcuni grossi settori della pastorale parrocchiale mi pare che sia importante in vista anche poi dopo della storia. Un ultimo elemento che vorrei precisare. Ah, beh, a proposito dell'archivio riservato, io direi di non pensare che ci sia chissà che cosa in questi archivi riservati, Dio mio. Non facciamo una identità fra l'archivio vescovile e l'archivio riservato. Se c'è qualche processetto di qualche peccato o peccatuccio, insomma, fa parte sempre della gloria di Dio anche questo, quindi non credo che si debba proprio mettere a chiave e sotto chiave tutto, esclusivamente tutto l'archivio vescovile. Ci sarà qualche fondo che è un po'... Ecco, va bene. Già nel codice del 17 si diceva che valeva la pena di stracciare tante cose e tenere le cose fondamentali a livello di sentenze, quindi insomma non credo che si debbano fare chissà quali inquisizioni ulteriori su questi archivi riservati. L'ultimo discorso che vorrei fare è questo proprio del rapporto con i finanziamenti. È un discorso banale questo, però all'interno delle nostre diocesi è molto pesante. La dottoressa domani parlerà meglio di questa fortuna che abbiamo avuto per 5 diocesi venete di avere finanziamento da parte del Ministero dei Beni Culturali, che è stata una vera provvidenza per noi, e penso che sia importante che venga anche conosciuto nei dettagli e anche valorizzato per quello che può garantire di efficienza culturale all'interno delle nostre diocesi. Senta, sì. Per quanto riguarda il finanziamento, da quest'ultimo punto, io credo che forse è arrivato il momento in cui, nel bilancio della Curia venga esplicitata la voce archivio. Venga inserito il capitolo archivio. Tenuto conto, oggi come oggi, che alle curie vescovili i vescovi dispongono di una liquidità annuale che mai, da 200 anni qua, essi hanno avuto mai, non si sono mai sognati. Ora, a un certo momento, ecco l'intesa in questa prospettiva, io non ho aggiunto un altro capitolo, magari stasera conversando possiamo anche dilungare, ma noblesse oblige. Ci sono dei doveri di proprietà che bisogna assolvere. È venuto il momento in cui nei bilanci delle curie bisogna esplicitare il capitolo archivio. Non si può vivere di assistenza. Bisogna esprimere responsabilità. E la responsabilità significa anche evidenziare il capitolo. È già educativo. Per quanto riguarda la seconda cosa, perché me l'ha chiesto diverse, Venga su, me le dica le accenni. Beni culturali, io credo che è una situazione in movimento questo. Di fatto, poiché l'articolo 12, come è avvenuto nel passato, richiederà una serie di attenzioni e di esplicitazioni, io credo che in ogni curia, tra 10 anni, ci sarà l'ufficio dei beni culturali. Dico tra 10 anni perché le cose si stanno facendo. In fondo anche a livello diocesano si realizzerà quella struttura che si è già operata a livello nazionale. L'ufficio dei beni culturali, nei quali c'è la realtà archivistica, la realtà bibliotecaria, libraria, la realtà museale, naturalmente questo cosa significa? Significa un qualcuno, sarà un vicario episcopale, sarà un direttore dell'ufficio, adesso le forme quali saranno, una persona che coordina un po' questo settore, che avrà delle referenze con gli enti locali, con lo Stato. si andrà verso questa situazione, si andrà. Naturalmente in questo movimento ci sarà il riassestamento di competenze e di altro. Che altro mi ha chiesto? Da 5 cose, le già risolte 2. Veda, le moderator curie, naturalmente se il problema che lei ha sollevato è quello di una organizzazione della curia. Se non c'è l'organizzazione della curia, tutti i discorsi saltano per aria. Perché facciamo mezzano, mezzanino, porta, porticina, sottoscala, scala, qui si tratta di reimpostare. E reimpostando il vescovo dà alla figura, se lo crede, del moderator curia il ruolo che gli dà. È chiaro. Ecco, io mi sono convinto di una cosa, che chi ha autorità deve servire e deve servire con strumenti adeguati per il servizio. Ora, la curia è una struttura di servizio, sì o no? Ebbene, se è struttura di servizio, la faccia funzionare. E la prima cosa per farla funzionare è quella di razionalizzarla, ossia di organizzarla. Per quanto riguarda la produzione attuale, io credo, le voglio rispondere con una battuta. Ho avuto occasione, alcuni la sanno già, parlando con diversi vescovi, amici o comunque vescovi, ho detto: lei passerà la storia per un avido amministratore di beni ecclesiastici. Scò. Parlavo dei sant'uomini, scò. Mi dici questo? Sì, guarda, eccellenza, del suo governo certamente riverranno tutte le carte del settore amministrativo. Purtroppo dico, e cominciamo a vedere che gli occhi si aprivano, dice, e dico della sua attività, l'ufficio pastorale, l'ufficio liturgico, l'ufficio di evangelizzazione, la Caritas, l'ufficio missionaria. Guardi, io giurerò, se potrò campare 400 anni, giurerò che lei a queste cose pensava. Però non ci crederanno al mio giuramento, non troveranno le carte. Ecco, questo è un problema serio. Naturalmente questo significa che, ecco, ci deve essere un luogo, una persona, un ufficio in cui tutto questo, diciamo, mare magnum di attività trovi il punto di riferimento. La documentazione sia conservata, e qui bisogna inventarlo. A Bergamo dicevano protocollo unico, dal cancelliere passa tutto e il cancelliere distribuisce nei vari uffici. Tutti lo vogliono, l'accettano, benissimo. Ma un qualche cosa ci deve essere. Noi nelle cure abbiamo a volte 5-6 protocolli. Andiamo nel ridicolo. Noi ci ammoderniamo, ma io ritengo ancora che a livello di struttura di governo noi siamo nell'antico regime ancora. E forse ci rimarremo sempre. Perché non c'è una razionalizzazione, un'organizzazione moderna, efficiente, che colga i nessi. Ora, questi, vedete, sono problemi che io condivido e di cui bisogna dare soluzione, però nell'ambito dell'autorità del vescovo. A Venezia hanno detto, stiamo studiando da 2 anni, stiamo pensando, stiamo riflettendo, stiamo discutendo. Però noi falseremo, ecco quello che sto dicendo, noi falseremo, noi stessi, stiamo facendo un suicidio morale, distruggendo o non conservando tanta documentazione dell'oggi, che non dico dobbiamo fare la gloria di noi, ma che dica abbiamo lavorato e non abbiamo pensato soltanto a amministrare bene. E questo è un problema serio, dica. Ecco perché lo connetto con l'organizzazione della curia e con i ruoli che adesso saranno dati. Forse ho risposto a tutto? C'è qualche altra cosa? Sì. Portando proprio a supporto l'esperienza del vescovo nostro nei confronti delle parrocchie. Per esempio, la CEI ha raccomandato il cronico parrocchiale. Il vescovo nostro l'ha ordinato. Ora, non si dice di fare la cronaca tipo i tempi passati, non so, celebrativa, eccetera. Però uno strumento che documenti l'attività, la missionarietà della Chiesa, il cuore pulsante della Chiesa oggi, in ordine alla salvezza, credo che sia necessario, in un modo come l'altro, o a registro, o a finza, o a resoconto, o a giornalino parrocchiale, non so, con altri strumenti, ma è necessario. Io credo, vedete, stiamo la prima volta che forse a livello regionale state affrontando questi problemi. Io credo che si possa concludere che le strutture, gli strumenti normativi ci sono, il codice c'è. Naturalmente il codice suppone la sua attuazione pratica nelle varie realtà diocesane. Seconda cosa, io credo che bisogna, non è sufficiente che ci siano le norme, o ci siano i suggerimenti. Occorrono le persone. Le persone che pensano con responsabilità verso il passato e in questo caso pensano con responsabilità verso l'avvenire. Naturalmente occorre una mentalità, formare mentalità e da questo produrre una cultura adeguata, una cultura della memoria. Noi diciamo sempre ricordati Signore, la comunità ecclesiastica sempre ricorda, ma poi che di fatto dimentica sempre. È strano le contraddizioni che noi diciamo, preghiamo richiamando la memoria, ricordati Signore, e poi guarda caso siamo più disattenti ai fratelli che ci hanno preceduto. Che poi questo in fondo è coltivare il rispetto delle persone che hanno lavorato, di cui noi siamo eredi e continuatori, e prepariamo già l'avvenire per gli altri. Ora, questa è una cultura che bisogna, una cultura storica, una cultura della memoria, una cultura del documento, una cultura dell'avvenire. E questi passaggi sono molto... però bisogna farli. Per cui ecco, io concludo, non tardate a riunirvi da capo. Fate da capo l'incontro e discutete di questi argomenti tra di voi, scambiandovi soprattutto esperienze. Vedete, non aspettatevi molto dai vescovi, i vescovi hanno tante altre cose da pensare. Io credo che la prima responsabilità di noi che siamo collaboratori fiduciari, noi siamo collaboratori fiduciari. Ebbene, noblesse oblige, se abbiamo accettato l'incarico che abbiamo, dobbiamo aiutare anche i superiori ad emanare quei provvedimenti che sono necessari, di aiutare i superiori a scoprire la realtà che a loro sfugge. Ma se noi non facciamo, non rendiamo né un servizio al nostro superiore, del cui titolo di ufficio ci onoriamo, ne rendiamo un servizio alla gente. E saremo peccatori di omissione. Auguri, al prossimo incontro. Adesso un po' di pausa. Ringraziamo Monsignor Palese per il vivo affresco che ci ha fatto, e a lui e tutti coloro che sono intervenuti, perché si è trattato della costruzione di una immagine, io credo, molto più viva e molto più impegnata nella realtà archivistica di quanto si potesse pensare, almeno dal punto di vista di un osservatore come il sottoscritto. Peraltro alcuni archivi veneti li conosco, so che c'è molto impegno. Direi che facciamo 15 minuti di pausa